0266203209. Buonasera, Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Beh, a questo punto veramente ben ritrovati dopo una bella pausa, bella, sì. Speriamo di sì per tutti, pausa estiva ma anche semi-autunnale, se vogliamo insomma contare anche questi ultimi giorni, anche se poi a ben vedere, a ben sentire, insomma, il tempo è ancora piuttosto clemente. E invece le musiche di 451 frammenti sonori che ritornano appunto per questa stagione un po' tipo scolastica, no? Tra il 2015 e 2016, sto iniziando un po' a perdere anche il conto degli anni nel corso del tempo. È così, insomma, l'incoglionimento è sempre più vicino, ma insomma per quest'anno spero ancora di riuscire insomma a reggere e a farvi insomma a fare qualche viaggio sonoro ancora di quelli interessanti. 451 appunto torna questa sera chiave frammenti sonori, domani con Eliseo Scarpa invece tornerà come intersezioni, 451 intersezioni, che nasce appunto intersecandosi, scusate il gioco bisticcio di parole, con l'antica e bella trasmissione di Pier Antonio Pezzinga. 451 da qualche anno potete trovarla insomma sul blog 451frammentisonori.noblogs.org, come da un paio di annetti anche appunto 451 intersezioni. Questa sera per iniziare così per rifarci sentire e portare insomma acqua al mulino della sperimentazione che lavora incessantemente e produce ancora cose eccezionali, magari anche senza l'ancora, anzi proprio perché sperimenta ancora, porta avanti e riesce ad aprire nuove frontiere, non soltanto acqua quindi per mulini, mulini al vento, ma anche per qualcosa di più lontano, o se vogliamo anche molto più indietro, forse a tornare a una sorta di azzeramento. E questa sera in effetti è un azzeramento visivo, quello che andremo insomma a estrapolare dentro appunto musiche, ma soprattutto umori che si cibano di cinema, di cinema per film mai girati, di musiche appunto che immaginano forse appunto immaginando creano cinema, oppure del cinema di fatto tentato e non riuscito per film che sono morti lì, per film che sono iniziati e non sono mai finiti, o per film anche che in effetti non sono stati mai girati ma che esistono come film. Poi dopo vi farò anche capire, niente di particolarmente misterioso, non vi preoccupate, anzi uno dei momenti cinematografici più importanti di sempre, perlomeno per quanto riguarda le neoavanguardie degli anni 60, la Nouvelle Vogue dell'altra riva, della Rive Droit, così si faceva chiamare, ma non voglio anticipare più di tanto. E iniziamo con Padna, che escono da qualche anno, un gruppo piuttosto oscuro, progetto difficile anche da definire. Alku Toinen, il disco del 2015, uscito qualche settimana fa, e in questo caso Padna prendono tanto di quell'ambientazione appunto cinematica, ma anche quel concretismo che poi si fa appunto visivo tante volte, anche non trasformandosi nel vero senso della parola in tale, ma portandoci a livello immaginativo come proiezione, una proiezione visiva appunto, se vogliamo, fantastica in questo senso. E Padna appunto aprono queste musiche per film mai girati, e chissà, magari potrebbero essere girati anche, perché sì, anche in questo momento da voi, perché insomma l'immaginativo ci porta anche a questo, film mentali che poi potrebbero anche diventare qualcos'altro. Per il momento insomma ci limitiamo al mentale, che non è poco, e poi appunto troveremo anche altri esempi. Beh, un buon inizio insomma di 451 frammenti sonori con Padna e queste musiche per film mai girati. Thank you. 唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸。 Can't never sing a song like that. 虽然会经常 A song that can make you blush. 我依然爱着你。 Though I often forget that I still love you. 因为爱情不会轻易悲伤，所以一切都是心。 Because of love, I can never be sad easily, and it makes everything look good. Because of love, though I live in a peaceful life.My life can never live with vicissitudes, and both of us look young. Ascoltati Padna, da tra l'altro un'etichetta decisamente interessante, la Agu Records di, del New Jersey statunitense, che riesce veramente a coniare un nuovo immaginario, in questo senso molte delle musiche che passano qua, 451 frammenti sonori ma anche intersezioni, e sono musiche che vivono appunto di un'idea filmica, seppur lontana, molte, non tutte ovviamente, alcune sono assolutamente autonome, hanno un loro carattere appunto che si distacca anche dall'immaginativo, magari per presa diretta. Qua invece sembra quasi che ci sia sempre una sorta di rimando, perlomeno in questo Padna Alku Toinen, disco superbo del 2015, con anche, avete sentito, questo field recording che va dentro appunto un'ambientazione, una musica quindi che sì, riporta sicuramente a un immaginario anche filmico, visto che poi di fatto il rumore ci porta a immaginare delle situazioni, oppure abbiamo sentito nel secondo frammento preso dal loro bel disco, anche più di bello, Alku Toinen, abbiamo sentito quasi una sorta di radio cinese e di frequenze impostate sul mondo asiatico e soprattutto appunto sulla Cina, e quindi di conseguenza la lontananza, ancora un esotismo se vogliamo per dentro gli expo generali, e quindi forse con un esotico forse che non esiste più, forse esiste soltanto in termini di immaginazione appunto di nuove frontiere, di nuovi immaginari, magari anche non soltanto terrestri, ma in questo senso anche l'alterità, poi se non addirittura gli antagonismi ancora mondiali che ci sono e che continueranno a esserci evidentemente, ci portano comunque a creare delle immagini forti, soltanto per il fatto insomma di essere dall'altra parte del mondo, cosa non da poco. E se con Padna, con sicuramente etichetta Agu Records che tratteremo per altri versi, poi tra l'altro abbiamo già inserito con gli Stetson, tanto per farvi capire anche quanto siano molto variegate le produzioni di questa veramente più che bella etichetta, Xiu Xiu, ma anche Felipe T, che è uno che anche lavora con field recording, mettendolo dentro ambientazioni, ma anche molto post glitch, se pensiamo ad esempio a Blevin Blechtum, e faccende insomma che riguardano questa Babele sonora che insomma in questi anni per tanti versi attraversa le onde dei più attenti, ma anche forse dei meno attenti, visto che poi di fatto anche il mondo insomma del pop, del mainstream è molto settoriale, quasi a non parlarsi più tra vari settori. Forse uno dei momenti più utopici potrebbe essere proprio quello di creare un linguaggio, un nuovo esperanto, chissà, musicale, filmico. Forse ancora l'immagine ha questa potenza, e tra l'altro abbiamo anche sottofondo uno dei grandi immaginari potenti del Novecento. In questo momento magari qualcuno li sta anche vedendo e ascoltando, non ci può ascoltare in diretta perché magari è appunto alla performance di Biosphere qua a Bologna. Ma grandi maestri di un suono immaginativo che si è sviluppato molto negli anni 90. Ovviamente si potrebbe anche del tutto rimandare, ma veramente non solo o soltanto come fonte primigenia, le Music for Film, ma di fatto sia con i Field Recording che dentro le Music for Film non erano previste, sia un modo più frammentato di intendere anche, e più frammentario anche l'ambient music, mischiandola col drone e col noise, e con questo slancio appunto visivo quasi, cosa che ovviamente non può che farci portare a quel film, forse il film più importante mai girato. Potremmo anche citare Blue di Derek Jarman. In realtà lì c'è un girato che è un virato blu, qua invece i fotogrammi sono montati, quindi quasi a ritrovare un immaginario primigenito dello stesso cinema. Stiamo parlando della La Jetée del grande insomma Cri Marker, assolutamente eccezionale, e uno dei momenti più potenti, ripeto, del cinema, insieme magari anche all'avanguardia storica che viene musicata in questo caso in sottofondo. Ce l'abbiamo con Biosphere, con l'uomo con la macchina da presa del grande Dziga Vertov, e anche lì una materia cinematica che corre, ovvio, all'epoca correva verso i binari di un treno lanciato a velocità pazzesche, che era quello del futurismo, in questo caso del futurismo russo, e per quanto riguarda la Jetée di Cri Marker, si trattava di quel linguaggio anche decostruito e di quel grado zero anche che cercavano molti registi della Nouvelle Vague, soprattutto appunto nel punto più sperimentale. Alphaville di Godard ci viene in mente, come appunto non prendere come esempio cardine probabilmente di un mondo sperimentale che ancora crea immaginazione, che ancora riesce a sviluppare forse quello che non è stato mai girato appunto nella Jetée, perché montaggio di fotogrammi. Esistono veramente tante citazioni, tanti anche film costruiti sulla Jetée, che magari non lo citano direttamente. Potremmo insomma citare invece un film giratissimo, quello di Terry Gilliam, L'esercito delle 12 scimmie, film anzi dove il girato diventa preponderante, quasi a voler riempire quegli spazi in maniera satura, quasi a saturare appunto il visivo. Terry Gilliam nel film L'esercito delle 12 scimmie, ma riportandoci a questo grado zero di costruzione massima operata da Cri Marker appunto negli anni 60, andiamo a prenderci anche quello che è stato così un momento decisamente poetico che apre e squarcia anche la jetée con questa immagine di questa donna che proietta inquietudini e pensieri dentro questo e volando dentro questi archi meravigliosi di Trevor Duncan.

Are you there? No, you are not there. Listen, I try to write down everything that is between you and me. Everything I think about, everything I feel, everything I hope, everything I swear, everything I wanted, everything I cheat on, everything I think I figure out, everything that I know I not understood, and in any case, everything that. Then I took away everything that is not essential, everything that is frightening, that is insincere, everything that is not true, everything that does not matter, everything that is irrelevant, everything that can be misunderstood, disputed, mystified, forgotten, lost. In short, everything that. In the end, all that was left was this. I am happy when you're happy. I am sad when you're sad. And when you're gone, I miss you. E siamo rimasti sulla Jeté con Osmotic e Christian Fennez. Nome così di poco conto, insomma poco conosciuto dentro le sperimentazioni tra gli anni 90 e gli anni 0. Christian Fennez che ritorna appunto con questa formazione, questo progetto Osmotic, non si sa bene chi siano, ma di fatto insomma sembra ritrovare quasi insomma in certi momenti quelle magie, quei momenti di assoluta elevazione dei primi dischi appunto legati a Christian Fennez, con un Air Effect che di fatto è dedicato ed è influenzato dalla Jeté completamente, un disco che vive di quegli umori già del film mai girato, il film più bello mai girato, quello di Cream Harker, che ispira appunto Osmotic e Fennez per un lavoro che riesce anche a essere non soltanto visivo ma anche fisico in alcune parti. Noi abbiamo ascoltato l'entrata e l'uscita, quasi a volere anche togliere tutto quello che appunto è possibile immaginare dentro. Quindi immaginatelo questo suono prima, e questi pezzi che si sviluppano anche ritmicamente prima magari di andarlo a scaricare o di andarlo insomma ad acquistare, o quello che insomma farete pur di ascoltare questo Air Effect di Fennez Osmotic, ovviamente sempre che vi interessi la faccenda. Comunque faccenda che non può essere interessante quanto i primi lavori di Fennez, perché decisamente alti quindi fino a Endless Summer, con belle collaborazioni anche come Fennoberg, ma che continuano a parlare, a narrare a questo punto di un artista che comunque che non è ancora domo, anzi tutt'altro, e di artisti non domi, anzi assolutamente non domabili, e anche così variamente mischiati, seppur poi a ben vedere, anche se può sembrare strano, il quartetto che viene a formarsi con Simon Balestrazzi, Max Eastley e Alessandro Olla insieme a Zev, qua uno potrebbe pensare insomma una sorta di incidente che ha fatto ritrovare i quattro, Simon Balestrazzi, lo dico proprio all'italiana, non Simon insomma, perché viene dalla storica formazione dei TAC, tomografia ad asse computerizzata, storico gruppo dentro la sperimentazione, molto vicino a certe sperimentazioni industrial. Max Eastley che esce con David Tupp da forme di improvvisazione radicale che riescono a tramutarsi anche qua fantasticamente in concretismo, uno dei musicisti concreti più fantasiosi degli ultimi 40 anni, Max Eastley, soprattutto appunto in coppia con David Tupp, anche in termini proprio teorici, di far suonare l'insuonabile, come far suonare appunto i suoi strumenti eolici che abbiamo ascoltato anche qualche tempo fa in una trasmissione appunto di 451 dedicata ai concretismi, o Alessandro Olla che proviene da forme accademiche di musica contemporanea, però poi è riuscito a virare anche verso forme più sperimentali, anche con Massimo Olla dentro Noisedelic, quindi tutto anche quel mondo che va a rintracciare appunto il noise industrial italiano, e poi appunto sempre quegli scatti che ci sono stati ad esempio dentro i TAC di Simone Balestrazzita, teatralità assurde tra ipnotismi che si fanno anche a volte dementi, volutamente tali, quasi andare a toccare punte di linguaggio non più codificabili. E poi Zev che ha una carriera a dir poco eccezionale dentro i primi fermenti tra no wave e new wave americana, e poi dentro di industria quello è più verso quella sperimentazione etnica, quindi quell'azzeramento di cui parlavo all'inizio della trasmissione, questo ritornare indietro, questo suono primordiale, ancestrale, quasi cercato da Zev. Bene, tutti insieme fanno questo floating signal, appunto un signale che va a creare un flusso tra il ipnotico e anche a volte appunto un magico che poi però va a schiantarsi appunto dentro queste inquietudini che attraversano, queste irrequietezze, questi grandi appunto nervosi irrequieti della musica, che sono Simone Balestrazzi, ripeto, Max Eastley, Alessandro Olla e Zev, per questo appunto film immaginario, queste musiche per un film mai girato, o forse girato soltanto con gli occhi, stando lì a stante e quindi anche captando quello che sono i suoni concreti e appunto quello che poi riportano anche in termini di immaginazione sonora questi suoni concreti. Une rêverie nostalgique nourrie par le souvenir nous produirait d'un pays à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'une œuvre à l'autre. En creux, le couloir rhodanien, le bassin méditerranéen et sa carte des mers avec beaucoup de bleu. En vrai, une histoire vécue. Encore une amie photographe partie pour l'heure vers le jour du voyage. Il y a aussi d'autres artistes venus d'ici et d'ailleurs. Ils accompagneraient ce songe. Ils seraient comme Susanna.